Presentando il progetto della banca dati, Paolo Paoletti ha già evidenziato l'ampiezza e l'articolazione della riflessione sollecitata dal trattamento informatico degli atti visitali. Una discussione che coniuga problemi tecnici nuovi, posti dalle modalità di gestione dei dati da parte dell'elaboratore, con gli apporti più tradizionali dell'archivistica, dell'approfondimento storico sull'istituzione visita pastorale, dell'esegesi della fonte, visita pastorale. Il mio intervento si propone quindi di presentare qualche esemplificazione di questi aspetti in riferimento ad atti visitali basso-medievali. Accennerò ad alcuni problemi legati alla forma degli atti quattrocenteschi, presenterò un'esemplificazione di missione dei dati e quindi l'elaborazione degli stessi. Per quanto riguarda il primo punto, preferisco riservare alla redazione scritta un bilancio sulla bibliografia più recente e sui relativi orientamenti, per soffermarmi piuttosto su alcune difficoltà molto pratiche, forse al limite dell'ovvietà, ma comunque di grande rilievo per l'estensione del progetto Banca Dati a questo tipo di documentazione. L'elemento che forse più di tutti può condizionare la realizzazione di un indice repertorio di visite medievali è costituito dal carattere frammentario della documentazione, spesso imputabile ad operazioni di scompaginamento in una pluralità di fondi archivistici o di enti di conservazione. Anzi, per il Medioevo padano, la mia impressione è che la dispersione di verbali visitali e di documenti sussidiari tra archivi diocesani, biblioteche e archivi parrocchiali costituisca quasi la norma. Il caso più noto è sicuramente quello di Milano, dove una consistente serie di visite condotte tra il 1454 e il 1455 da Gabriele Sforza è stata disordinatamente raccolta nel primo volume della miscellanea Città e Pievi presso l'archivio diocesano. Analogamente a Tortona, atti di ispezioni a chiese cittadine e plebane compiute tra il 1493 e il 1505 sono stati rilegati con i verbali delle prime visite post-tridentine. A Como, i verbali di visita che presenterò in seguito sono confluiti in una raccolta di atti notarili quattrocenteschi conservata presso l'archivio della Curia e riguardante soprattutto l'amministrazione del patrimonio di enti ecclesiastici diocesani. Alle vicende della conservazione di atti visitali quattrocenteschi, d'altro canto, non sembrano estranee le modalità della loro stessa produzione. In Italia, come è noto, l'autenticità dei documenti prodotti ai vertici della diocesi era garantita dal ricorso a notai pubblici, generalmente legittimati da una specifica investitura episcopale a redigere in publicam formam tutte le scritture afferenti al governo di vescovi e di vicari. Sia pure con qualche cautela, quindi, nel 1994 Chittolini indicava la possibilità di rintracciare anche documentazione visitale quattrocentesca nei quaderni dei notai della Curia Arcivescovile di Milano. Dopo il reperimento di frammenti di ispezioni compiute da Stefano Nardini e da Giovanni Guidantonio Arcimboldi tra il 1461 e il 1497, sono state avviate ora ricerche sistematiche, con l'obiettivo di approntare un repertorio che permetta un primo orientamento tra le abbreviature di quel centinaio di notai attivi presso la Curia Ambrosiana durante il periodo ducale e di cui si sono conservati gli atti. Per quello che mi riguarda, esiti ugualmente positivi hanno avuto ricognizioni nel fondo notarile comasco, nel quale sono conservate testimonianze dell'attività visitale di tutti i 5 vescovi della seconda metà del Quattrocento. Una documentazione così sparsa pone d'altra parte un problema di riconoscibilità, cioè di corretta individuazione del contesto istituzionale nel quale l'ispezione episcopale è maturata. Per le istituzioni ecclesiastiche del Ducato milanese è ben attestata l'utilizzazione dell'istituto visitale nell'ambito di vasti progetti di riforma di monasteri e di enti assistenziali, non privi di collegamento con gli interessi del potere ducale. frequentemente a Milano e a Como verbali di ispezioni condotte da vescovi e vicari a monasteri femminili non sono collocabili in un'organica visita pastorale, ma piuttosto nel disegno di introdurre nel dominio l'osservanza, in particolar modo quella agostiniana. Ne riprova, in particolare, la reazione delle monache o di una parte di esse a queste ispezioni: resistenza all'ingresso del visitatore, rivendicazione dell'esenzione dal potere episcopale e, inevitabilmente, il ricorso al tribunale della curia. Allo stesso modo, visite ad ospedali cittadini possono preparare strutture assistenziali centralizzate e di nuova fondazione, come l'ospedale Maggiore a Milano. In tal caso, in genere, l'ispezione vescovile non manca di mettere in risalto negligenze nella gestione amministrativa e trascuratezze nel tipo di assistenza offerta. Quindi, mentre la prima difficoltà posta dalle visite d'età moderna è costituita in genere dalle dimensioni, e Paoletti ha già sottolineato le scelte attuate di conseguenza per la creazione della banca dati, un progetto di repertoriazione esteso a visite più antiche non può non tener conto del cospicuo investimento di tempo e di forze richiesto dalla identificazione della documentazione pretridentina. D'altro canto, gli esiti immediati, i primi risultati dell'informatizzazione di verbali frammentari, dispersi, ma sicuramente riconducibili a un'ispezione più o meno ampia, sono evidenti. Disponendo di frammenti datati o databili, l'ordinamento cronologico di schede redatte per i singoli enti permetterebbe sia la ricomposizione di una sorta di serie archivistica virtuale, sia la ricostruzione dell'itinerario percorso dal visitatore o dai visitatori nel corso della tornata di visita. Preliminare, tuttavia, dovrebbe essere anche la scelta circa il trattamento cui sottoporre la documentazione solo marginalmente correlata alla visita, e non tanto i cosiddetti documenti sussidiari di cui si tiene conto nel progetto banca dati proposto dall'ISIG, quanto piuttosto quegli atti che solo implicitamente informano di un'ispezione o che sono connessi all'esecuzione dei decreti visitali. Penso rispettivamente alle vertenze tra pievi e chiese filiali per la ripartizione delle spese sostenute in occasione della visita, o a quelle riforme statutarie di capitoli canonicali che soprattutto nella seconda metà del XV secolo sembrano essere la prima conseguenza delle visite di vescovi e di vicari lombardi. Per entrare ora nel merito di alcuni problemi posti dalla gestione informatizzata della documentazione, mi sembra utile presentare gli esiti dell'applicazione del software utilizzato dall'ISIG per la schedatura delle visite trentine a due serie visitali del XV secolo. I verbali delle ispezioni compiute tra il 1444 e il 1445 dai vicari del vescovo di Como Gerardo Landriani e la visita del vescovo Francesco del Legname alla città e alla diocesi di Ferrara, completata tra il 1447 e il 1450 e già ben nota grazie all'edizione curata da Peverada. Cronologicamente contigue, quasi contemporanee, le ispezioni nelle due diocesi furono condotte secondo modalità e criteri differenti. I vicari del vescovo di Como, infatti, visitarono tutte le chiese plebane curate nelle regioni settentrionali della diocesi, cioè le Pievi del Lago, la Valchiavenna e la Valtellina, escludendo quasi completamente regolari ed enti assistenziali. Mentre le ispezioni del vescovo ferrarese e del suo vicario riguardarono tutte le tipologie di enti ecclesiastici, comprese quindi chiese e cappelle dipendenti dal capitolo cittadino o dal clero regolare, case di religiosi esenti dalla giurisdizione episcopale, enti assistenziali e confraternite responsabili della loro gestione. In ogni caso, i problemi di metodo relativi all'emissione dei dati non variano in relazione alla diversa estensione della fonte. Egualmente, un valore sufficientemente rappresentativo mi sembra possano avere anche le elaborazioni dei dati, anche perché la consistenza delle due visite ne ha permesso la schedatura completa, mentre per verbali post-tridentini, in genere molto più cospicui, si sarebbe resa necessaria quella selezione di pievi campione di cui ha parlato Paoletti. Premessa della schedatura è stata la lettura integrale del testo per controllare la cronologia, per rilevare variazioni lessicali e semantiche, ma soprattutto per coglierne il senso complessivo, con particolare attenzione per la forma assunta dalle ispezioni nella registrazione scritta. Infatti, mentre la visita comasca, che è allo stato di minuta notarile, si risolve nella schematica verbalizzazione degli ampi interrogatori e dei decreti, la documentazione ferrarese è il prodotto di una sistemazione del materiale di visita, una sistemazione successiva, in un corpus organico e ricco di puntuali rimandi. Al liber visitationum antiquarum, cioè ai verbali delle visite compiute dal predecessore Giovanni Cavelli da Tossignano, perfino con i rinvii puntuali alle stesse pagine del libro, a significativi atti anteriori alla visita e conservati nei protocolli di altri notai, in genere si tratta di atti di fondazione di beneficio di ospedali, e a provvedimenti adottati dopo le ispezioni del 1447 o anche in occasione di visite successive, processi, nomini di massari, unioni di benefici. Per la visita ferrarese, quindi, si è stabilito di operare solo sul materiale datato tra il 1447 e il 1450, estendendo però la schedatura anche alle informazioni fornite dai documenti sussidiari, cioè gli inventari e gli ordini, che costituiscono una parte integrante dei verbali. La critica interna alla fonte è risultata essenziale ancora nell'analisi della visita del clero, per esplicitare e quindi codificare quegli interessi dei visitatori sottesi a domande generiche, sintetizzate nella formula quasi stereotipa super interrogatoris consuetis et necessaris, formula che, con poche varianti, super opportunis, super generalibus, ricorre frequentemente nella documentazione di visite medievali, e che appunto per questa apparente genericità ha probabilmente influito su una certa sottovalutazione delle forme che in queste visite pretridentine assume la visitatio omnium. Nella documentazione ferrarese queste parole, laddove compaiono, sono spesso seguite da un giudizio sommario, un giudizio di merito molto generico, bene, sufficiente, che non rimanda immediatamente al tenore della domanda. Laddove l'esame ha un esito negativo, invece, segue sempre l'elenco delle mancanze riscontrate, che sono sempre carenze culturali di varia gravità. Quindi gli interrogatori consueti necessari sono quelli relativi alla verifica della preparazione culturale del clero, per cui anche là dove la formula non è accompagnata da precisi giudizi del visitatore, si è ritenuto opportuno compilare anche il relativo campo qualità intellettuale. Al contrario, nella visita lariana, la cultura degli ecclesiastici è verificata in media attraverso 5 esplicite domande sulle conoscenze dottrinali dell'interrogato, alle quali fanno sempre seguito risposte non generiche. Certamente la forma assunta nella registrazione da questo aspetto dell'ispezione non è indifferente ai fini della comprensione del contenuto della visita comasca e di un eventuale confronto con ispezioni coeve. Ma per quanto riguarda la nostra repertoriazione, tale peculiarità non condiziona la codificazione dei dati, che sono stati tutti ugualmente aggregati, come per Ferrara, nel campo qualità intellettuali. Più rilevante per le scelte operate nell'immissione dei dati si è rivelato il diverso peso assunto nelle due visite dall'esame dei testimoni laici, che nella visita del 1444 a Como prendono la parola solo sporadicamente, quando voci di abusi commessi dal clero rendono necessario un supplemento di indagine, mentre a Ferrara il laicato appare quasi il principale referente dei visitatori. Soprattutto per la visita dal legname, questa pluralità di voci ha portato in alcuni casi alla compilazione di campi apparentemente contraddittori. A volte la voce relativa alle condizioni materiali descritte nel complesso, che sottintende una generica descrizione, appunto, risulta compilata contemporaneamente a campi relativi ad aspetti specifici dell'esame dell'edificio. Anche nella parte della scheda relativa alla condotta dei fedeli, i giudizi sommari si alternano a notizie fornite da testimonianze precise e circostanziate. Ma in tal modo si è tentato di rendere una molteplicità di fonti di informazione, risultato allo stesso tempo anche di una precisa scelta operata dall'estensore della documentazione, quella appunto di dare conto anche delle deposizioni meno significative. Il prodotto dell'immissione dei dati è dunque un archivio di 72 schede per la visita lariana e di 164 schede per le ispezioni ferraresi. Per queste ultime in particolare, l'elaboratore ha restituito una fonte strutturalmente diversa dall'originale, poiché è venuta meno quella divisione tra visite alla città e visite alla diocesi che è stata introdotta nei verbali dall'estensore stesso. L'esito di una prima interrogazione, di una prima query relativa ai luoghi visitati e impostata secondo un criterio di ordinamento cronologico, potrebbe quindi essere il calendario della visita, con utili indicazioni circa l'itinerario, le interruzioni, la composizione delle commissioni visitali, che in genere dipende anche dallo status giuridico degli enti visitati. Vorrei invece dire qualcosa di più su un tipo di elaborazione impostata sulla frequenza dei singoli campi rispetto alla loro totalità. Nella logica globale del sistema, questo significa misurare, contare, la ricorrenza di una certa informazione nei verbali di visita, per fornirne una prima descrizione. Una descrizione prevalentemente, ma non esclusivamente, quantitativa, perché verificare il tipo e la quantità di informazione offerta o non offerta dalla fonte rispetto alle voci della griglia di immissione dei dati può costituire un primo approccio agli aspetti ritenuti essenziali nella verbalizzazione delle ispezioni, con una certa apertura anche sulle finalità della stessa visita. Per dar conto anche degli aspetti istituzionali, economici e religiosi che non compaiono nella documentazione che ho schedato, le percentuali ottenute dall'elaborazione sono state inserite in una tavola, che è la tavola numero 1, che riproduce la scheda unità visitale 1, quella che viene utilizzata generalmente per le chiese in cura d'anime. Sono stati esclusi tutti quei campi la cui compilazione sarebbe risultata anacronistica per verbali anteriori al Concilio di Trento, come i campi relativi ai registri parrocchiali o alle scuole della dottrina cristiana. Analogamente sono state omesse le sezioni relative alla vita politica della comunità e alla presenza di associazioni cattoliche, voci che sono più proprie di visite contemporanee. Correlati a questa elaborazione sono anche i dati relativi alla scheda capitolo, la tavola numero 2, che è stata compilata per tutte le pievi lariane ispezionate tra il 1444 e il 1445 e quelli della scheda ospedale che trovate nella tavola numero 3, che invece è stata utilizzata abbastanza frequentemente per la schedatura della visita del 1447. Comune a entrambe le visite risulta l'attenzione per particolari edifici sussidiari alla chiesa, sacrestia, la canonica, campanili, per certi aspetti giuridici ed economici dell'ente, per il beneficio e per le altre forme di reddito, per gli inventari, per specifici aspetti della condizione del clero, come le qualità intellettuali, lo zelo pastorale, la moralità, il concubinato. Peculiare alla visita lariana risulta la preoccupazione per la corretta gestione delle mense capitolari e del sistema di prebende, mentre dalle ispezioni degli enti assistenziali ferraresi è possibile recuperare qualche informazione sui redditi, sul giudizio del visitatore e occasionalmente anche sull'ente gestore. Molto più dettagliate invece risultano a Ferrara le informazioni sulle condizioni degli edifici e sulla consistenza quantitativa delle comunità parrocchiali. La visualizzazione grafica, limitata ai valori percentuali assunti dai singoli campi, che trovate nelle tavole numero 4 e numero 5, può facilitare invece una prima riflessione sulle preoccupazioni prevalenti all'interno delle singole visite e quindi sul carattere stesso dell'ispezione. In particolare, nella visita comasca risulta molto accentuata l'attenzione per la preparazione culturale e per l'esercizio dei servizi religiosi da parte del clero. Sono molto alte le percentuali relative ai campi qualità intellettuali, amministrazione dei sacramenti, messe. Analogamente assume grande rilievo la condotta del clero, si veda l'incidenza del campo concubinato accanto alla voce moralità. Di questi sacerdoti in cura d'anime interessa naturalmente verificare anche le condizioni economiche. Con grande frequenza è possibile recuperare in questi verbali informazioni sui benefici, sulla loro consistenza economica, sulle usurpazioni della proprietà ecclesiastica da parte dei laici, che sono confluite nel campo relativo alla morale economica. Mentre già ho accennato al forte rilievo accordato alla gestione delle mense capitolari. Raramente nella visita comasca la condotta dei laici è oggetto di domande generiche e con analoga precisione l'attenzione per l'osservanza del precetto pasquale, per i casi di concubinato, per le irregolarità matrimoniali trova un riscontro puntuale anche negli ordini. Meno rilevante invece appare l'attenzione per le condizioni materiali degli edifici e degli arredi, con due eccezioni che mi sembrano significative, cioè per il tabernacolo e per la canonica. L'incidenza della prima voce mi sembra possa rispondere all'esigenza di verificare i requisiti essenziali al luogo deputato ai servizi religiosi, mentre il rilievo della voce canonica riflette la preoccupazione che le necessità religiose della comunità siano soddisfatte da un clero effettivamente residente. Questa scala di grandezza si rovescia almeno in parte, siamo alla tavola 5, per la visita ferrarese. Preeminente mi sembra qui l'attenzione per i laici, con un orientamento disciplinare, e si vedano le percentuali relative alla condotta dei fedeli, e al tempo stesso con una preoccupazione pastorale. Infatti le voci relative al cerimoniale di visita, messa, cresima, predicazione, sono state compilate con grande frequenza. Funzionale all'esame della vita religiosa delle popolazioni, mi sembra possa essere considerata anche la spiccata preoccupazione per lo stato materiale degli edifici e degli arredi. Per quanto riguarda i primi, è frequentissima la nomina o la conferma di massari, ed è stato compilato allora il campo fabbriceria. Mentre lo stato degli arredi sacri è quasi sempre verificato sulla scorta degli inventari redatti nel corso della visita precedente del 1434, quella del vescovo Tavelli da Tossignano. Lo stesso esame del clero residente sembra finalizzato ad accertare quegli aspetti direttamente connessi all'esercizio dei servizi religiosi. Si vede il rilievo dei campi qualità intellettuali, zelo pastorale, ma anche biblioteca, piuttosto che a evidenziare carenze nella vita personale del clero. Infatti i campi concubinato e moralità sono compilati più raramente e solo sulla base di dichiarazioni da parte dei testimoni laici. Un altro tipo di elaborazione che purtroppo non sono riuscita a stampare, ma che probabilmente sarà possibile vedere domani durante la dimostrazione del programma, può sfruttare anche quei file di informazioni gestiti dagli elaboratori in archivi separati. Mentre questi campi, i campi di cui ho parlato finora, privilegiano la conoscenza del quadro generale fornito dalla fonte, l'informazione c'è o non c'è, gli archivi separati contengono anche campi di testo e permettono un recupero anche qualitativo di particolari tipi di informazione, nomi dei visitatori, dedicazione di cappelle, nominativo, qualifiche e provenienza di un certo sacerdote. Particolarmente interessante, quindi, potrebbe risultare un'elaborazione delle informazioni sui sacerdoti titolari di benefici minori e i cui nomi nella struttura del database sono collegati a tutti quegli enti visitati ove essi dichiarano di occupare, di detenere benefici. Già una semplice lista di questi altri sacerdoti potrebbe suggerire piste di ricerca di particolare rilievo per lo studio delle istituzioni ecclesiastiche quattrocentesche. Penso al cumulo dei benefici, al radicamento presso un collegio canonicale di personaggi verosimilmente legati da rapporti di parentela, al rapporto tra residenti e non residenti, più in generale alla permeabilità delle chiese locali anche ad elementi extradiocesani. Come valutare allora, e concludo rapidamente, l'impatto del calcolatore su atti visitali che, soprattutto in certi aspetti formali, porgono alla sensibilità del ricercatore problemi particolari rispetto all'analoga documentazione post-tridentina? Mi sembra che il limite maggiore sia costituito dalla difficoltà di codificare analiticamente, punto per punto, ogni sollecitazione, ogni domanda, ogni preoccupazione del visitatore. Così come sul versante delle risposte, i 281 campi della griglia descrittiva non sono stati sufficienti a rilevare e conservare la specificità di notizie relative a una ricca gamma di elementi giuridico-istituzionali, di rapporti interpersonali, di comportamenti individuali e collettivi, di attitudini verso il sacro. Si è resa quindi necessaria l'aggregazione dei dati in categorie più ampie. Ad esempio, per i laici, nel campo comportamenti sanzionati sono stati schedati dati attinenti a irregolarità matrimoniali, comportamenti collettivi e alla morale sessuale. Sicuramente questa semplificazione può ripercuotersi su fasi successive dell'approfondimento, pregiudicando ad esempio il puntuale confronto tra verbali di visita e questionario, o nascondendo, celando all'attenzione del ricercatore interessi molto specifici, come quello molto insistito nella visita comasca per la tabula, per la registrazione dei canonici che partecipano alla recita delle ore presso le chiese collegiate. L'utilità del sistema, allora, mi sembra debba essere ricercata non nella possibilità di trovarvi tutto, ma nell'opportunità di tradurre informazioni, anche generali, in grandezze confrontabili, suscettibili di orientare la riflessione interpretativa anche verso piste di ricerca. Mi rifaccio ancora ai dati che vi ho presentato. Il confronto quantitativo tra due visite pressoché contemporanee ha messo in luce profonde differenze tra lo sguardo del vescovo di Ferrara e quello dei visitatori comaschi. Diverso è l'oggetto primario delle loro indagini, differenti sono le modalità di approccio all'interlocutore, presumibilmente diverso il modo di interpretarne il vissuto. Per quanto riguarda la visita all'Ariana, i valori numerici assunti da queste peculiarità e le relazioni tra le varie grandezze mi hanno indotto a cercarne la spiegazione all'esterno. E un primo elemento di interpretazione mi sembra possa essere offerto dal confronto coi decreti del Concilio di Basilea, cui Gerardo Landriani, allora vescovo a Lodi, aveva preso parte attivamente. In particolare, il decreto De Concubinaris può offrire le coordinate cui fare riferimento per valutare la costante preoccupazione per le frequentazioni femminili dei preti in cura d'anime. Analogamente, le prescrizioni della sessione ventunesima, finalizzate a correggere abusi nella partecipazione alle quotidiane distribuzioni e a garantire decoro e regolarità delle celebrazioni presso le chiese collegiate, possono spiegare l'insistita attenzione per i collegi di canonici in diocesi di Como. In questo modo il confronto tra numeri ha aperto nuove prospettive di approfondimento sull'istituto visitale come veicolo di stanze riformatrici anche prima di Trento, sulle aree di penetrazione di tali stanze e per le diocesi del Ducato di Milano un'analoga applicazione dei dettami di Basilea è già stata verificata per alcune collegiate milanesi, per altre città come Piacenza e Novara. Sulla ricezione di tali stanze da parte dei vescovi e dei loro vicari, e infine sull'efficacia che questa precoce attività di disciplinamento ebbe sul basso clero tardo medievale.